Parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte, ciao a tutti. Lo sciopero delle donne, interclassismo e spoliticizzazione. Che cosa significa sciopero delle donne? Interrompere il lavoro che una donna presta, di qualunque tipo esso sia e a qualunque titolo, significa far pesare alla controparte, in questo caso allo Stato, quanto conti il lavoro delle donne nella società. È quindi una richiesta di riconoscimento. Ma una richiesta di riconoscimento è tutta interna al sistema, sia al patriarcato sia al capitalismo, che ha assunto il patriarcato a seconda delle sue esigenze e in questo momento specifico rispetto alle esigenze della sua fase neoliberista. Quindi la richiesta può essere riassunta in questi termini: se io non vengo riconosciuta per quello che valgo in questa società e per l'apporto che do, mi rifiuto di lavorare. E allo stesso tempo, se la mia vita non vale e quindi non vengo tutelata dalle istituzioni rispetto alla violenza maschile, io mi rifiuto di dare il mio apporto a questa società. È quindi una richiesta non solo di riconoscimento, ma anche di tutela. Ma il patriarcato è una configurazione economica piramidale, gerarchizzata, autoritaria, in cui la parte maschile è investita del ruolo guida e la parte femminile è in una posizione subalterna. E questo per una efficace messa al lavoro dei soggetti. Chiaramente il patriarcato viene assunto e reimpostato dal sistema su uso e consumo, ed infatti il capitale in questa sua fase, attraverso l'emancipazionismo, ha caricato le donne anche del lavoro all'esterno, in modo da ottenere due risultati: sfruttarle anche come salariate e inglobare quelle che si prestano nelle situazioni di comando e o di potere e o di trasmissione dei valori neoliberisti, così che sostengano il sistema e perpetuino lo sfruttamento di tutte le altre e degli oppressi tutti. L'emancipazione delle donne è comunque sempre sub iudicio, perché la loro condizione di lavoratrici, in cui sono soggetti di serie B, è evidente nel diritto che il capitale si arroga di rimandarle a casa qualora il loro lavoro non serva più o la loro disponibilità non sia più utile. E per fare questo non occorrono leggi o proclami speciali, basta che attraverso i canali con cui il sistema produce egemonia culturale faccia passare segnali ad hoc: la maternità è bella, le femministe casalinghe rifiutano la carriera, le donne che lavorano sono troppo stressate, è necessario recuperare i valori del tempo dedicato a se stessi e alla famiglia, il lavoro è un falso mito, e così via a seconda di quello che serve. Ma il lavoro principale che il sistema pretende dalle donne, a titolo tra l'altro gratuito, è quello riproduttivo e di cura. Ed è questa la grande vittoria del patriarcato: aver fatto passare per naturale, tra virgolette, un lavoro vero e proprio e averlo fatto passare per non lavoro, sempre tra virgolette. Quindi scioperare come donne significa interrompere il lavoro che possiamo definire all'esterno, o anche il lavoro di cura e riproduttivo, che è il nodo centrale del nostro asservimento patriarcale. E se interrompere il lavoro di cura può essere tutto sommato fattibile, come si interrompe il lavoro riproduttivo? A meno che il lavoro riproduttivo non venga identificato con il lavoro sessuale, ma è una visione limitata ed è anche una forzatura, visto che il lavoro sessuale è un'altra attività vera e propria che ci viene accollata, sia che sia a titolo oneroso, sia che sia a titolo gratuito. Fondamentalmente quindi scioperare significa far presente alla controparte che le donne lavorano nella società a tutti i livelli e che quindi pretendono riconoscimento e tutela dallo Stato. Ma tutto questo non ha niente di femminista e tantomeno di rivoluzionario, anzi è una dichiarazione esplicita di subalternità sia al maschile che allo Stato, perché si chiede alla controparte il riconoscimento della propria esistenza. Questo tipo di modalità di lotta poteva avere un senso nei periodi storici in cui le donne erano escluse del tutto dalla vita sociale effettiva ed erano tutte fuori dai circuiti produttivi e decisionali, relegate tutte in modi diversi a seconda della classe sociale al lavoro riproduttivo e di cura, dove risiedeva principalmente, anche se non esclusivamente, il perpetuarsi del dominio, del rapporto di dominio patriarcale. Oggi, nella stagione neoliberista, la nuova frontiera del perpetuarsi della società patriarcale passa anche attraverso la cooptazione di donne che, in cambio della loro promozione personale, vendono le altre donne e svendono la lotta femminista e spacciano la loro promozione personale per emancipazione. Oggi ci sono donne che fanno un lavoro sporco di licenziare altre donne, che reprimono, giudicano, condannano forti di una divisa o di una carica istituzionale, che comandano le cariche nelle piazze contro chi osa ribellarsi, che giustificano, sponsorizzano e partecipano alle guerre umanitarie, che propagandano i valori neoliberisti e patriarcali attraverso la stampa e i media, che veicolano la medicalizzazione dell'esistenza di tutte le altre donne forti di un camice bianco. L'operaia dovrebbe scioperare insieme alla dirigenza aziendale di turno che la licenzia? La compagna insieme alla poliziotta che la manganella nelle piazze? Quella che occupa la casa insieme all'assistente sociale che le toglierà i figli dato che fornisce un pessimo esempio educativo? La secondina insieme alla carcerata? La magistrata insieme alla notab? La migrante insieme a Livia Turco che l'ha messa in un CIE? La disoccupata insieme a Susanna Camusso che ha firmato tutti gli accordi più nefandi sul lavoro? Perché tutte sono utili alla società e con il loro lavoro danno un contributo fattivo alla nazione, tra virgolette. Tutto questo risponde a quella fascistizzazione dello Stato che sta attuando il neoliberismo, fascistizzazione che si manifesta anche proprio nel far dimenticare che la società è divisa in classi, per cui in questo caso ogni donna nel suo ruolo e al suo livello sociale, nella sua collocazione, dovrebbe essere contenta di avere il riconoscimento del proprio lavoro e tutte insieme, ottenuto il riconoscimento e la tutela, dovrebbero lavorare per costruire sempre tutti insieme questa società migliorata e migliorabile. Una modalità di lotta interclassista come è lo sciopero delle donne ha dei connotati profondamente reazionari e neoliberisti ed incentiva la svendita delle donne al potere. È la spoliticizzazione delle lotte che il neoliberismo propugna da molti anni, in tutti gli ambiti, per cui la protesta e la ribellione devono perdere i connotati di classe e le rivendicazioni devono essere delegate ai rappresentanti di categoria o alle associazioni di consumatori o alla class action. In questo modo si fornisce un paravento dietro il quale la società patriarcale e neoliberista può nascondere i propri obiettivi reali, quali l'inasprimento della disoccupazione, la precarizzazione della vita, le crescenti disuguaglianze, le guerre umanitarie, il ruolo di cura da cui dicono di voler affrancare le donne, ma in cui ne viene prepotentemente confermata la stragrande maggioranza. Poiché questi obiettivi sono inconfessabili, si veicolano come emancipazione, come transizione che dovrebbe condurre alla nostra liberazione, così come nella società il neoliberismo viene presentato come moderno e dovrebbe condurre alla crescita, alla piena occupazione, alla giustizia sociale e nei paesi del terzo mondo alla democrazia. La donna viene ridotta a una dimensione conformista, indotta dal politicamente corretto. Il conformarsi diventa una variante del consumo, in definitiva l'unica attività umana che definisce l'essenza dell'individuo. Non c'è più riconoscimento del nemico. La comprensione e la chiarezza su come opera ora il patriarcato e sugli obiettivi che si pone. La trasversalità della nostra oppressione, che è reale, non ha niente a che fare con l'interclassismo. È necessaria la consapevolezza che solo uscendo dalla dimensione interclassista, fuorviante e fraudolenta, è possibile la presa di coscienza di genere, indispensabile per combattere il nostro asservimento. Mai come in questo momento storico, proprio per l'uso specifico dell'emancipazionismo che fa il dominio neoliberista e patriarcale, il femminismo è stato attraversato dalla classe. Mai come in questo momento è necessario scardinare i ruoli sessuati insieme all'organizzazione gerarchica, autoritaria, verticistica e mercificante del potere. Ciao! Tan solo divisa el polvo del coche que lo llevaba del coche que lo llevaba. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó la por un tu y comien, sartiroteo y comien, insartiroteo. Thank you. llora, llora.